Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche tempo fa, per la precisione, nel corso del Salone del Mobile che si è tenuto qui a Milano, ho avuto la possibilità di incontrare Carlo Ratti. Ratti, che ha alle spalle studi di architettura e ingegneria, insegna al Massachusetts Institute of Technology, il MIT, dove appunto dirige il MIT Sensible City Lab, specializzato proprio nello studio a 360 gradi degli ambienti urbani. Ratti ormai è considerato un guru della Smart City, tanto che ha in corso progetti in moltissime città di tutto il mondo. L'ho incontrato naturalmente proprio per parlare di città intelligenti. Sentite com'è andata. Negli ultimi anni c'è stato un termine, il termine era green, che a un certo punto è diventato onnipresente. Adesso mi sembra già di vedere un po' questa dinamica con un altro aggettivo che è smart. Allora, rispetto a quello che può essere di buon senso, ovvio da fare perché le città sono anche piene di cose terribilmente irrazionali, che cosa qualifica invece un intervento, qualcosa proprio come smart? Sono assolutamente d'accordo. L'etichetta smart viene usata oggi molto e a volte forse fin troppo, un po' come green, poi è diventato anche greenwash, quindi qualcosa che viene usato anche se non è per niente green, ma un po' semplicemente per dare un tono. Per quanto riguarda smart, però penso che sia dietro c'è un fenomeno molto profondo, e questo fenomeno è il fatto che grazie alle reti, grazie ai sensori, grazie a tutta l'elettronica distribuita, le nostre città stanno iniziando a funzionare in maniera completamente diversa. È lo stesso fenomeno che si è verificato negli ultimi 15-20 anni in altri campi come quello della Formula 1. Diciamo, la Formula 1 20 anni fa per vincere una gara ci voleva una buona macchina, un buon pilota. Oggi per vincere una gara ci vuole un sistema di telemetria con migliaia e migliaia di sensori che raccoglie informazioni, le immagazzina, le analizza e prende decisioni in tempo reale. Ecco, oggi per la prima volta le nostre città stanno diventando un po' come quella macchina di Formula 1 e quindi sta cambiando radicalmente il modo di interpretarle, di capirle, di progettarle e in ultima analisi di vivere. Quindi è un ingrediente di carattere esclusivamente tecnologico, cioè è l'intelligenza della rete o c'è qualcosa di più? Non c'è il rischio che così prendiamo una declinazione molto tecnocentrica e ci dimentichiamo di una serie di aspetti anche un po' sociali che forse sono altrettanto qualificanti come smart? Ma è esattamente lo stesso processo di internet, se vogliamo vediamolo in un altro modo. Lo stesso processo di internet è un'innovazione tecnologica, ma alla fine perché è importante? È importante ad esempio perché ci permette di collegarci gli uni con gli altri, ad esempio con Facebook o social network, perché ci permette di accedere alla conoscenza. È la stessa cosa, quindi di nuovo è un driver, è una spinta che viene dalla tecnologia. In questo caso, per semplificare, potremmo quasi dire è internet che entra nello spazio, che entra nella città, e però le conseguenze e le cose importanti sono quelle sulle persone, quindi sulla nostra capacità poi di cambiare la nostra vita grazie a queste tecnologie. Ci sono due modi di vedere la città intelligente. Un modo diciamo un po' ingegneresco, è l'idea che abbiamo un sacco di informazioni nella città, la città sta diventando quasi un computer all'aria aperta, e così come un computer ha bisogno di un software per farlo girare, dobbiamo creare tutti quegli algoritmi per far girare meglio la città. E questo è interessante, ma forse c'è un altro sistema che è più interessante, è quello di un sistema aperto, un sistema dal basso, un sistema che non è top down, come si dice in inglese, ma bottom up, che parte dal basso proprio per permettere ai cittadini di fare cose nuove. E credo che alcuni esempi degli recenti, che vanno dalla campagna di Obama, che vanno dalla primavera araba, oppure dai vari movimenti Occupy New York, Boston, Wall Street, tutto questo ci faccia vedere come proprio le reti ci permettano come cittadini di giocare un nuovo ruolo in città. Ecco, da questo punto di vista le reti assumono un valore sempre più strategico, già adesso sono assolutamente strategiche, a un certo punto un problema quasi di democrazia. Che tipo di modello anche il proprietario delle reti di utilizzo può rispondere meglio a questa direzione nella quale stiamo andando, in cui appunto le reti assumeranno un'importanza sempre più rilevante? L'aspetto interessante delle reti oggi, che proprio in quanto reti sono non seguono un modello unico, seguono molti modelli. In più in generale, non c'è forse un'unica risposta, più in generale io credo che più creiamo delle architetture aperte, più creiamo delle architetture ridondanti, più avremo un sistema robusto e di cui siamo sicuri. Allora, diciamo che c'è un amministratore pubblico, per esempio, o una città che dice ma voglio diventare smart. Allora, che domande deve farsi? Ci sono due o tre domande importanti, fondamentali, che deve farsi per capire qual è, per esempio, il primo passo da fare, che forse è la cosa più difficile. Allora, io non so esattamente cosa deve fare, ma so cosa non deve fare. Io non vorrei essere nei panni di un amministratore pubblico oggi, per quello che succede che di solito si trova con decine e decine di rappresentanti di prodotti Smart City. Oggi è un momento in cui moltissime industrie, anche industrie che lavoravano in campi completamente diversi, pensiamo a IBM o Siemens, stanno entrando nel campo della città, e un amministratore pubblico oggi si trova sommerso un po' da proposte di nuovi servizi per città intelligente. Ecco, io credo che quello che non deve fare è prendere un pezzetto qui, un pezzetto là, rischia di fare l'effetto un po' albero di Natale, invece deve partire proprio dalle specificità della città e cercare di capire come quelle specificità, quei problemi, quei punti di forza della città possono essere risolti in modo nuovo. Ma ci sono dei capitoli particolari, insomma. Sappiamo che c'è il tema della mobilità, sappiamo che c'è il tema della sostenibilità, cioè il problema qui è la complessità, credo, è come riuscire a tirar fuori il primo capo di questo gomitolo che è estremamente aggrovigliato. Sì, effettivamente i temi sono moltissimi, sono appunto il trasporto, piuttosto che il consumo di energia, piuttosto che la raccolta dei rifiuti, però se partiamo dai punti di forza di una città, ad esempio, possiamo fare cose molto belle. Io non so, se dovessi proporre qualcosa in Italia, l'Italia è un paese con dei centri storici bellissimi, con dei bellissimi spazi pubblici, perché non fare come fece Barcellona 10-15 anni fa, di rigenerarsi completamente partendo da un programma legato allo spazio pubblico? Allora, perché una città come Milano, come altre città italiane, perché non partire proprio da un progetto sugli spazi pubblici, ma pensando a spazi pubblici smart, quindi ci sono funzioni nuove, dove si possono fare cose diverse, dove proprio la tecnologia entra e parte dalle piazze, che sono poi una delle cose più interessanti, le cose che tutto il mondo ci invidia nei nostri centri storici. In passato, quello che si diceva, soprattutto era un'eredità del Bauhaus, si diceva spesso che bisogna progettare dal cucchiaio la città. Ecco, oggi è come se dovessimo progettare dal microchip, non alla città, ma anche alla regione, al paese, al pianeta. C'è la scala di operazione per chi si occupa di queste cose, di città intelligente, e poi può essere qualcuno con un background, con una formazione di architettura o di ingegneria o di informatica o anche di sociologia. Ecco, deve essere capace di guardare tutte queste scale, proprio dal nano, dal microchip, fino alla scala dell'intero pianeta. Bene, anche per questa sera è tutto. Appuntamento a domani.